Ed ora tocca a lei. Yes, it's your turn. You're the shopkeeper, so after you hear what the customer wants, ask about the quantity. E dopo ripeta la domanda esatta. And then repeat the right question. Vorrei del vino. Quanto vino? Vorrei dell'acqua. Quanta acqua? Vorrei delle paste. Quante paste? Vorrei dei biglietti dell'autobus. Quanti biglietti dell'autobus? Vorrei degli euro. Quanti euro?